pace scende con la sera, cala piano piano, scivola leggera, tieni fuoco acceso per chi sta arrivando, lascia un posto vuoto per il tuo amico, sulle mie spalle porto una chitarra, dentro il mio cuore tanti desideri, una lunga strada sale verso il monte, l'eco dei miei passi sento risuonare. Grande pace scende con la sera, cala piano piano, scivola leggera, tieni fuoco acceso per chi sta arrivando, lascia un posto vuoto per il tuo amico, una grande luce illumina il cammino, passo dopo passo sono più vicino, sento il fuoco acceso, tu mi stai aspettando, sento la tua voce, tu mi stai chiamando. Una grande pace scende con la sera, cala piano piano, scivola leggera, tieni fuoco acceso per chi sta arrivando, lascia un posto vuoto per il tuo amico. Una grande luce vedo da lontano, note musicali sento risuonare, un leggero tocco sfiora la mia mano, sento il tuo respiro, sei accanto a me. Una grande pace scende con la sera, cala piano piano, scivola leggera, tieni fuoco acceso per chi sta arrivando, lascia un posto vuoto per il tuo amico.